Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini. Nuova puntata di Respiro con il Natale ormai alle porte. Presto le nostre case si riempiranno di giocattoli nuovi e allora vi domandiamo: che ne farete di quelli vecchi, di quelli rotti o, per essere più specifici, che ne farete di quelli elettrici ed elettronici che non funzionano più? Un'iniziativa per recuperarli l'ha lanciata di recente Remedia, uno dei sistemi collettivi per la raccolta e il recupero ecosostenibile dei RAE, ovvero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Remedia poi inoltre si occupa anche di pile ed accumulatori. Questa iniziativa l'ha lanciata a G come Giocare, il Salone Internazionale del Gioco che si è tenuto da poco a Milano, dove Remedia ha organizzato una raccolta straordinaria di giocattoli appunto elettrici ed elettronici. Abbiamo chiesto com'è andata a Danilo Bonato, direttore generale di Remedia. Siamo molto contenti perché questo è un altro problema che abbiamo in Italia. Si fa fatica a capire che anche i piccoli oggetti elettronici hanno un valore di recupero importante, più facile con un frigorifero o con una televisione. E invece è essenziale educare i più piccoli sul fatto che un telefonino, un piccolo apparecchio elettronico, un giocattolo elettronico è un oggetto che va raccolto in modo differenziato e niente di più bello che poterlo spiegare in quella che è un po' la festa, la fiera di riferimento dei piccoli che giocano e che ci hanno portato più di 150 piccoli giocattoli elettronici, che è un numero che può sembrare esiguo, ma nell'ambito di due giornate di fiera, con un'informazione che c'è stata ma non così capillare, magari faremo meglio nei prossimi anni, è un buon risultato, vuol dire che un certo numero di bambini ci ha creduto e ha capito lo spirito dell'iniziativa. Che poi è uno spirito appunto importantissimo, perché leggevo per l'appunto nei dati che voi avete reso noti recentemente che i rifiuti tecnologici sono in aumento costante con un tasso di crescita pari al triplo di quello dei rifiuti normali addirittura. Quindi è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. È così, è una priorità nel mondo dei rifiuti e direi dell'ambiente, proprio perché le case, i consumatori stanno acquistando sempre più prodotti e di questo passo andremo a generare per ogni anno in Italia 1 milione di tonnellate di questi rifiuti. Oggi riusciamo a recuperarne in modo sicuro, potendo riciclare questi apparecchi elettronici a fine vita, circa il 25%. E questo fa capire quanta strada ci sia ancora da compiere da un punto di vista della sensibilizzazione, delle strutture, ed è un percorso su cui ci stiamo muovendo con buoni risultati, ma che è ancora agli inizi, e per cui c'è veramente molto da fare, perché tutti questi rifiuti sono fatti da materiali che poi hanno un valore, come i metalli preziosi, la plastica, l'acciaio, il ferro, il rame, il vetro. Dunque ormai è abbastanza noto, nelle grandi catene di elettrodomestici o comunque di apparecchi elettronici, quando acquistiamo un apparecchio nuovo sappiamo che possiamo, meglio ancora, dobbiamo restituire il vecchio che verrà poi opportunamente smaltito. Questo per i grandi. Nei piccoli negozi invece come sta andando? Sì, stiamo parlando dell'uno contro uno che in Italia sì, è entrato in funzione a giugno ufficialmente e che sta ancora soffrendo un po' della, come in tutte le cose, della scarsa informazione che hanno ancora i cittadini, i consumatori e di alcune difficoltà operative. Però è positivo che anche in Italia si sia partiti con questo servizio gratuito al consumatore, che è utilissimo perché, come lei diceva, io posso finalmente andare a comprare un prodotto elettronico e consegnare presso il negozio senza nessun costo il vecchio che devo buttare via. Sta partendo con delle difficoltà, ma nel 2011 sarà molto più comodo e più facile poter usufruire di questo servizio. Anche sugli oggetti più piccoli, presso il negozio c'è l'obbligo del ritiro uno contro uno in caso di acquisto di un nuovo prodotto, quindi mi si rompe il ferro da stiro, io posso andare ad acquistare il nuovo apparecchio lasciando il vecchio ferro da stiro guasto presso il negozio e il negoziante è obbligato a ritirarmelo gratuitamente. Quello che manca forse è la conoscenza da parte di noi cittadini, della maggior parte delle persone, che anche i piccoli oggetti, dal telefonino al frullatore al computer, devono essere raccolti in modo differenziato. Siamo ancora in troppi che non lo sanno e che poi utilizzano il classico sacco nero, quindi noi non riusciamo a raccogliere molti di questi apparecchi, principalmente perché la gente non ha capito che vanno e possono essere consegnati presso i negozi. Per chiudere, questi apparecchi poi, una volta che arrivano nella giusta destinazione, non certo nel cassonetto quello indifferenziato, sì, vengono smontati, immagino, e quindi poi ciascuna componente va a varie aziende che si occupano del loro recupero e riciclo. Esatto, qui avviene una cosa meravigliosa, nel senso che tutto quello che contiene uno di questi prodotti, fino anche al 95% dei materiali contenuti, viene separato e reinserito nei cicli produttivi. Quindi è fondamentale poter riciclare questi apparecchi elettronici a fine vita, perché noi stiamo esaurendo le risorse naturali e in questo modo possiamo disporre a costi ambientali minimi, perché vuol dire anche ridurre le emissioni di gas serra, vuol dire ridurre i consumi energetici, e abbiamo lì i materiali pronti da utilizzare senza andare a continuare a estrarli dalla terra. E vengono anche, tra l'altro, rilavorati, penso spesso, in Italia, quindi si dà lavoro anche alle imprese italiane. Insomma. Sì, soprattutto si fa crescere un'industria che da noi è ancora un po' in sofferenza, ma che all'estero è molto sviluppata, che è l'industria del riciclo, e che è importante sia sul piano ambientale sia sul piano dei posti di lavoro e dello sviluppo economico. E c'è poi un'azienda di giocattoli che per scelta ha deciso di non produrre giocattoli elettrici ed elettronici. Ha una storia particolare, perché è nata in Brasile da italiani emigrati là e negli ultimi anni è tornata in Italia grazie al lavoro del ramo della famiglia che a suo tempo scelse di non andare all'estero. Domenico Franzoni è fondatore di 2010 Group, la società che importa e commercializza i prodotti Calesita. Voglio innanzitutto chiedere di raccontarmi un po' questa storia, come è arrivata in Italia Calesita. È una storia anche affascinante, insomma, un po' atipica rispetto ad altre. Atipica rispetto ad altre, però è tipicamente italiana, se vogliamo, di certe zone che possono essere le nostre del Bresciano. Di bello c'è anche il ritorno in Italia, poi, cioè, sì, non c'è solo l'andata, ma c'è anche il ritorno. È proprio quello. Si è andati, praticamente parte della famiglia che nel dopoguerra si è trasferita in Sud America, poi si è spostata dall'Argentina al Brasile e oggi ritorna in Italia o ritorna in Europa con il prodotto della propria attività. Mentre c'era una parte della famiglia che lavorava qua su tutt'altro fronte. Sì, su tutt'altro fronte. Perché il ramo italiano di cosa si occupava, per spiegare ai nostri ascoltatori? Si occupava e si occupa ancora di scale trabattelli, quindi altro prodotto, completamente diverso se vogliamo, però con delle caratteristiche che accomunano sia le scale sia i giocattoli, che possono essere quelle della sicurezza. Senti, quindi ritorna in Italia questo ramo d'azienda e ci si occupa di giocattoli, voi avete affiancato un'attività all'altra, quindi proseguono tutte e due, no? La produzione però resta in Brasile, per quello che ho capito. La produzione dei giocattoli resta in Brasile, assolutamente sì. Quindi qua si fa distribuzione, vendita e tutto sì, quello noi che... noi facciamo distribuzione per il mercato italiano e il mercato europeo. Che caratteristiche hanno questi giocattoli che arrivano dal Brasile? Sono giocattoli che prendono in considerazione il bambino. Non abbiamo batterie, non c'è nulla di elettrico, di elettronico all'interno dei giocattoli. Sono giocattoli realizzati senza raffigurazione di arma, in nessun modo, in nessun tipo, e assolutamente educativi. Sono rivisitazioni dei giocattoli che si usavano una volta in chiave moderna. Perché la batteria e l'elettronica non sono educativi secondo la filosofia del giocattolo vostra? Allora, i giocattoli che noi abbiamo innanzitutto sono quella fascia d'età 0-6 anni, che nell'ultimo periodo è diventata un po' uno 0,4 e mezzo. I bambini avranno sempre per tutta la loro vita da confrontarsi con l'elettronica, quindi se almeno all'inizio, in questa fase iniziale dallo 0 ai 4 anni, riusciamo a dare la manualità, riusciamo a dare quelle abilità al bambino che dovrebbero essere sviluppate proprio in questa età, sicuramente è più utile rispetto all'elettronica. Poi arriverà l'elettronica, si confronteranno tutta la vita con questa, conoscendone quelli che possono essere i pregi e i difetti. Quindi meglio la manualità, insomma, meglio il contatto diretto magari. Meglio la manualità, meglio stimolare quelli che sono gli aspetti sociali del giocattolo, aspetti psicosocio-pedagogici, se vogliamo andare a prendere un attimino ad ampio spettro la questione. Un altro tema interessante è anche quello delle materie prime con i quali vengono prodotti questi giocattoli. Le materie prime innanzitutto sono tutte mescole plastiche con ultimi ritrovati a livello di caratteristiche meccaniche, quindi plastiche che sono estremamente resistenti ma allo stesso tempo molto leggere. La leggerezza consente a tutti i bambini di poter utilizzare i giocattoli senza aggravarsi di sforzi particolari, però la resistenza ci garantisce anche che questi prodotti possano durare nel tempo e possono essere utilizzati dai bambini senza rischio di rotture che poi possono generare dei danni. C'è una particolare attenzione magari a questioni più ambientali, di ecosostenibilità, oppure ancora questo non entra? No, entra e come, anche perché poi specialmente provenendo dal Brasile, se pensiamo non tanto anche al giocattolo in sé, che ha delle caratteristiche particolari, ma anche la confezione stessa, le confezioni vengono fatte in cartone, ma è un cartone che non deriva da deforestazione. Questo è necessario. Noi purtroppo in Europa siamo costretti a specificare queste cose, in Sud America, in Brasile in particolare, è una prassi ormai abituale, è una consuetudine. Quindi siamo più avanti in Brasile rispetto a quanto non siamo in Europa o in Italia? Decisamente sì, ma potrei anche dire a livello europeo, cioè siamo molto più avanti in Brasile o in Sud America, sia tanto nell'attenzione al bambino ma quanto l'attenzione all'ambiente. Che siate d'accordo o no con la scelta di eliminare l'elettronica dalla vita dei vostri figli, ci è sembrato comunque una posizione interessante da registrare. A tutti voi grazie per l'ascolto, grazie per averci seguito. Da Laura Bettini, l'appuntamento per la prossima settimana alla stessa ora.